Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw and this thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots! Avete appena sentito la radiocronaca dell'atterraggio di navi marziane a Grover Hill, nel New Jersey. Ma qui non siamo nella Guerra dei Mondi, il famoso programma di Orson Welles che nel 1938 scatenò il panico perché veramente la gente pensava che ci fosse un'invasione aliena. Siamo a Radio 24, io sono Filippo Astone e questo è il programma Fabbrica 2.4. Però comunque parliamo di un'invasione di marziani. I marziani che hanno invaso i nostri giornali, gli schermi delle nostre televisioni e stanno invadendo le nostre vite sono la robotica, sono la manifattura additiva, sono l'Internet of Things e tutte queste tecnologie della manifattura che ci hanno bombardato di informazioni nei giorni scorsi, anche perché il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda hanno presentato un piano per l'Industria 4.0. Tutti noi ci chiediamo che cosa sono questi marziani e come cambieranno le nostre vite. Forse tutto sarà automatizzato, i robot prenderanno il posto degli uomini e andremo tutti a casa? E questo piano dell'Industria 4.0 che cos'è? In che modo tocca i lavoratori che sono in ascolto, ma anche gli imprenditori, visto che si parla di incentivi fiscali? Tutte queste cose le esaminiamo al microscopio oggi con il professor Marco Teich. Buongiorno. Buongiorno. Che è docente al Politecnico di Milano, è responsabile del gruppo di ricerca sullo smart manufacturing sempre al Politecnico e poi per quanto riguarda il piano è stato coinvolto nel famoso piano sull'Industria 4.0 nell'elaborazione e nello studio dei contenuti. È nei fatti uno degli autori del piano. Soprattutto è il guru, anzi uno dei guru della manifattura in Italia, anche se lo vedo qui davanti a me, proprio le physique du rôle del guru non ce l'ha. Allora, nella prima parte della trasmissione parleremo dell'argomento posti di lavoro si riducono, si creano e cosa cambia. Nella seconda parte della trasmissione invece ci interrogheremo su quali rischi e opportunità il piano dell'Industria 4.0 porta agli imprenditori che sono in ascolto e che sono tantissimi. Lasciamo la parola al professor Teich. Allora, saremo tutti disoccupati perché arriveranno i robot? Io non lo credo assolutamente, anzi io credo che la possibilità di inserire automazione industriale nella fabbrica insieme alle altre tecnologie che sono state enunciate prima ci consentirà di diventare più produttivi, soprattutto di far sì che le nostre fabbriche in Italia, in Europa aumentino il loro fattore di competitività rispetto a quello che è successo negli anni passati. Negli anni passati noi siamo stati costretti a portare creazione di valore fuori dal sistema paese perché paesi a basso costo della manodopera evidentemente erano più competitivi di noi. L'automazione e insieme alle altre tecnologie ci consentirà di diventare produttivi. Questo farà sì che noi potremmo rientrare parti di creazione del nostro valore nel nostro paese e questo aumenterà la possibilità di mantenere i posti di lavoro. Però intanto se nella fabbrica tutto viene automatizzato, ci sono i robot, c'è sempre bisogno di un minore quantitativo di persone. L'aumento di produttività consente di andare a liberare capitali che possono essere investiti nel mantenimento o nell'accrescimento di nuove fette di mercato, di nuovi prodotti, sulla progettazione dei prodotti. Non dimentichiamo che questo dobbiamo analizzarlo poi insieme agli incentivi fiscali che fanno parte del piano questo lo vedremo per andare nell'ordine nella seconda parte della trasmissione. Ma pensi che io ho letto che esiste la Enlitic, che è una startup di San Francisco che usa il deep learning, che è la capacità delle macchine di imparare, oppure potrebbe essere forse la categoria del machine learning, per leggere le radiografie. Quindi il numero di medici che leggono le radiografie sarà inferiore. Quello che noi dobbiamo abituarci è che una serie di attività ripetitive, ma questo non è attenzione, un effetto nuovo. Questo è nato da quando la manifattura, quindi a seguito della prima rivoluzione industriale, ha cercato di diventare più produttiva. La ricerca di produttività e quindi di competitività è un'evoluzione storica alla quale dobbiamo evidentemente abituarci, se non l'abbiamo ancora fatto. Quelle attività ripetitive è chiaro che verranno demandate sempre di più alle macchine, nel senso ampio del termine macchine, ma se noi lavoriamo sulla riformulazione delle competenze delle nostre persone, potremmo andare a creare nuove occupazioni, nuovi posti di lavoro nel momento in cui siamo capaci poi di far evolvere il sistema verso la creazione di nuovi servizi, la creazione di nuovi prodotti e quindi la creazione di nuovi mercati che oggi magari non pensiamo neanche che esistano. E però intanto ci sono i momenti frizionali dove chi svolgeva le occupazioni oggi svolte dalle macchine viene messo fuori. Magari alla fine, dopo tot anni, il saldo del numero di posti di lavoro è uguale o perfino, viva il miracolo, superiore. Ma nei momenti di passaggio c'è chi ne fa le spese. Questo è assolutamente corretto, ma attenzione, il momento di passaggio in realtà non lo stiamo vivendo adesso, lo stiamo vivendo da sempre. E quindi l'equilibrio è un equilibrio dinamico, l'equilibrio della manifattura è un equilibrio dinamico per definizione. Io sono abbastanza d'accordo con lei quando lei mi dice che queste cose succedono nella manifattura. Ma dove io vedo il rischio è nei servizi. La manifattura prevede anche uno spostamento degli operai verso funzioni maggiormente cognitive. Forse non avrà neanche più senso parlare di operaio, sarà un professionista, o come li chiamiamo noi, knowledge worker. Knowledge worker, quindi sarà un lavoratore che fa un lavoro più qualificato, guadagna di più. Ma nei servizi le banche continuano, grazie all'automazione, a far fuori della gente. Lo fanno in modo morbido con i prepensionamenti e tutto quanto, ma sono comunque posti di lavoro in meno, meno gente che spende, meno gente che fa i mutui delle case. Guardi i dati sull'andamento dell'occupazione delle banche con l'automazione. Guardi McDonald's. McDonald's adesso non c'è più il tizio che dà i panini. Tu vai nei McDonald's e hai lo smart pad col tuo ditino. Dici i panini che vuoi, ti vai a ritirare il vassoietto e quello che si dava i panini, che ti dava i panini, prima ce n'erano 5 perché dovevano prendere l'ordinazione, adesso ce ne sono 2, gli altri 3 saranno finiti a spasso. Beh, ripeto, l'equilibrio dinamico non è solo all'interno della manifattura, l'equilibrio dinamico dobbiamo immaginarlo sempre all'interno di un'economia dell'intero paese. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che alcuni settori vedranno una riduzione del numero di occupati, ma altri settori invece vedranno un aumento del numero di occupati. Quali quindi, settori vedranno un aumento del numero di occupati? Quello della manifattura sicuramente è uno di questi, dove dobbiamo sempre pensare al sistema manifatturiero e industriale in senso ampio. Esiste la manifattura diretta, ma non dimentichiamoci che esistono, con un fattore moltiplicativo sul PIL pari a 2-2,5 volte, il settore dei servizi legato al settore industriale. Quindi noi stiamo parlando di un indotto dei servizi legato alla manifattura che fa sì che per quanto riguarda l'Italia stiamo parlando di circa il 55% del PIL del paese. E certamente, questo io l'ho sempre sostenuto ed è uno dei temi portanti di questa trasmissione, anzi una delle ragioni d'esistere di questa trasmissione. La manifattura è il motore pulsante della nostra economia, quella che genera maggior valore aggiunto, quella che genera maggiore qualificazione professionale, quella che genera maggiore ricchezza. Senza la manifattura saremmo tutti poveri. Questo a dispetto di un paese che ogni tanto sembra percorso dal folle dibattito per cui dobbiamo diventare tutti dei cuochi, dei camerieri, il turismo, l'agricoltura biologica e tutte queste balle, lasciatemelo dire con un termine chiaro, perché sono balle. Saremo tutti poveri se diventiamo tutti e solo e prevalentemente dei addetti al turismo. Se lei guarda le catene alberghiere, il numero di manager è molto più basso che nelle aziende produttive e generano gente che fa le camere e prende 800 euro. Auguri se diventiamo questo, come si sente dire continuamente in TV. Sono assolutamente d'accordo, ma io credo che il governo, no, con l'introduzione di questo piano, si sia accorto esattamente di quello che da qualche tempo trasmissioni come queste vanno dicendo. Certamente. Allora, ci avviciniamo allo stacco pubblicitario. Nella seconda parte della trasmissione parleremo del piano, ma soprattutto diremo agli ascoltatori che ci sentono, imprenditori e lavoratori, che cosa devono fare per sfruttare i vantaggi di questo piano, quali sono le mosse. Ma adesso avvisi sul traffico e pubblicità. Restate con noi. JP Morgan Asset Management vi presenta Fabbrica 2.4. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. He's moving! Look, he's back there! He's back there! Keep those men back! He's back there! Keep those idiots back! Rieccoci in linea, sempre con questa intro data dalla Guerra dei Mondi, che mi piace perché è proprio credere che arrivino dei marziani, perché poi Orson Welles l'aveva fatta talmente bene che la gente credeva che arrivassero dei marziani, invece i marziani non ci sono. Questo per dire anche che spaventarsi per le cose apparentemente sconosciute non porta da nessuna parte. Un po' dei marziani sono queste nuove tecnologie manifatturiere di cui parliamo oggi e che hanno un impatto sulla vita dei lavoratori e degli imprenditori. Nella prima parte della puntata col professor Teich, che è il nostro ospite, abbiamo detto che secondo lui non ci sarà una distruzione di posti di lavoro, ma al saldo i posti di lavoro potrebbero perfino aumentare. Certo è che c'è una grande trasformazione. Questa grande trasformazione comporta che le persone dovranno ricollocarsi, riqualificarsi. Non ci sarà forse più il solito posto fisso per tutta la vita. Sempre mettersi in discussione e magari avere una sorta di iniziativa personale che consenta di guardarsi attorno, di informarsi su quali corsi ci sono, di informarsi sulle opportunità e non di stare fermi nel posto fisso. È così, professore? Assolutamente. Io credo che, come posso dire, a fianco alla imprenditoria industriale, che è quella che poi crea il tessuto del paese, sempre di più dobbiamo pensare a un'imprenditoria personale. Ognuno di noi deve diventare imprenditore di se stesso. E queste nuove tecnologie, insomma, ti obbligano a farlo, perché sennò sei sbalzato via. Come tutte le rivoluzioni, c'è qualcuno che, se è capace di evolvere, beneficerà dalla rivoluzione, ma se non sei capace di evolvere, evidentemente la rivoluzione andrà a far, in qualche modo, lasciare sul terreno qualcuno che si è fatto male. Ecco, ma un altro dei suoi pensieri è che l'Industry 4.0 favorisce il reshoring, cioè il ritorno in patria delle produzioni un tempo delocalizzate, ma anche la microimprenditoria e la media imprenditoria italiana, e quindi favorendo il reshoring e le imprese di dimensioni più ridotte, anche questo potrebbe essere un modo di creare più occupazione. Ma ci spiega come questo è possibile? Io credo che le piccole e medie imprese oggi abbiano davanti un'opportunità che non possono perdere. L'opportunità è che grazie a queste tecnologie i loro fattori di competitività possono aumentare. Le imprese leader di filiere diventeranno più produttive, e quindi è chiaro che ci sarà un effetto di trascinamento delle piccole e medie imprese grazie all'innovazione e all'aumento di produttività delle grandi imprese. Le piccole è chiaro che dovranno essere aiutate e abilitate in questo percorso, perché dobbiamo mettere nelle condizioni di poi fare business. Quindi quando parliamo di infrastrutture abilitanti sul territorio per favorire la crescita delle piccole e medie imprese, questo diventa evidentemente importante. Quando parlo di infrastrutture abilitanti, per esempio alla banda larga, che è prevista dal piano, a cui poi arriviamo. Comunque, fatto sta che siccome Industry 4.0 comporta just in time, riduzione del magazzino e personalizzazione di massa, tutte cose che per la struttura del nostro sistema di piccole e medie imprese sono grandi opportunità. Assolutamente. Anche se qui non dimentichiamoci, c'è un grandissimo rischio, cioè il rischio del digital divide, cioè se la piccola e media impresa non capisce l'importanza di aggiornare e di fare investimenti su queste tecnologie, rischierà di rimanere indietro. Rimanere indietro oggi vuol dire di fatto uscire dal mercato. Certamente, perché per esempio io ho avuto l'onore di moderare qualche giorno fa un convegno di Federmeccanica dove veniva presentata una ricerca sullo stato dell'arte dell'Industry 4.0, e di questa ricerca autore professor Beltrametti dell'Università di Genova, insomma, la morale era che c'è un'Italia spaccata in due tra le imprese che hanno aderito a queste nuove tecnologie, ci hanno investito e si stanno dedicando a sfruttarle, e quelle che le ignorano totalmente. L'Italia dell'Industry 4.0 è spaccata in due. A giugno abbiamo presentato i dati di una ricerca fatta dall'Osservatorio Smart Manufacturing del Politecnico di Milano. Il 38% delle imprese che abbiamo interrogato nella nostra survey non conosceva assolutamente Industry 4.0, quindi questo è veramente un pericolo per il sistema. Ecco perché ho parlato di marziani, perché tutto questo parlare di Industry 4.0, che è stato causato dalla presentazione del piano e dal rumore mediatico, da molti è stata vissuta come l'invasione dei marziani. Perché abbiamo sempre paura dei marziani e continuo a non capirlo. Forse dobbiamo capire che cosa sono i marziani e dobbiamo in qualche modo, come ecco, posso dire, cerchiamo di capire che cosa sono i marziani. E diventare degli alleati invece. No? Giusta provocazione. Ora, su che cosa sia Industry 4.0, Internet delle cose, manifattura additiva, io intrattengo ogni settimana i fedeli ascoltatori di questa trasmissione. Però parliamo invece del piano, di cui lei è uno degli autori, no? Il Politecnico di Milano ha dato un contributo in termini di idee, ma non solo il Politecnico di Milano, evidentemente il governo ha fatto... Ma sì, ma c'era lei anche alla presentazione, non faccia il modesto. Va bene. Credo che sia il piano di tutta l'Italia. Sì, vabbè, il piano di tutta l'Italia. L'imprenditore che è in ascolto e dice, mo è arrivato questo piano, io che cosa me ne faccio? Gli diamo qualche suggerimento all'imprenditore manifatturiero su come sfruttare appieno il piano del governo sull'Industry 4.0? Io partirei dalle misure che saranno disponibili a partire dal 2017, quindi la possibilità di avere e di accedere agli incentivi fiscali che sono previsti per quelli che sono chiamati gli investimenti innovativi. Sono previste misure sul superammortamento, sull'iperammortamento, se le aziende andranno a investire su tecnologie che così verranno chiamate o classificate Industry 4.0. In quanti anni uno deve fare questi investimenti? Gli investimenti devono essere fatti a partire dal 1 gennaio 2017, attraverso la forma dell'iperammortamento e del superammortamento sarà possibile andarli poi a in qualche modo distribuire sui successivi anni. Credo che siano 4 anni, però questo io lascerei poi i dettagli. Però l'obiezione è che con queste agevolazioni fiscali, professore, sì, prego, si avvantaggiano comunque le imprese che sono già avanti, perché vede, non è solo una questione di spendere i soldi per le nuove tecnologie. E che tu, per poter investire in queste nuove tecnologie, devi avere un business plan, un'organizzazione aziendale, dei business prospettici per cui queste nuove tecnologie diventino dei fattori abilitanti. Perché se io mi compro tutta sta roba, ma poi non ho un'azienda che la sa utilizzare, avrò anche l'agevolazione fiscale, ma poi che me ne cioè lo tengo nel magazzino, la ferraglia... Assolutamente corretto. Infatti la seconda direttrice chiave del piano, credo che sia questo fondamentale, è sul lavorare sulle competenze. Il piano prevede di andare a formare a diversi livelli un numero più alto di laureati che abbiano competenze sull'Industry 4.0, di andare ad aumentare del 100% il numero di studenti iscritti agli istituti tecnici superiori, perché non dimentichiamoci, non dobbiamo parlare solo di laureati. Ma questa è la formazione della massa dei lavoratori, ma l'imprenditorino che ha 20 milioni, 30 milioni di aziende non ne sa nulla, che per voi è il 38%, per quelli di Genova è il 36%, costui che può fare se non portare i libri in tribunale? Il piano, assolutamente, ci mancherebbe altro che portassi i libri in tribunale. Il piano prevede anche la creazione dell'awareness, la creazione di una serie di Digital Innovation Hub distribuiti sul territorio che saranno vicini alle imprese, proprio per consentire alle imprese di incuriosirsi di quello che vuol dire Industry 4.0, di poter accedere alle competenze e quindi di poter, per quelle meno mature, aiutarle a capire quali sono le competenze necessarie per gestire questa trasformazione, a quelle un pochino più mature per erogare e dare consigli su come indirizzare quegli investimenti, la loro capacità. Ecco, ma quindi l'imprenditore che vuole sfruttare la cosa, andare al Digital Innovation Hub, dove trova le informazioni su cosa fare? A chi si rivolge per farsi aiutare? L'idea è che Digital Innovation Hub siano distribuiti sul territorio, siano coordinati dalle associazioni territoriali. Di categoria, quindi Rete Impresa Italia e le varie diramazioni territoriali e settoriali di Confindustria. Che siedono nel piano, nella cabina di regia del piano e che quindi in prima persona sono state coinvolte sia nella stesura del piano ma soprattutto anche nell'implementazione. Sì, certo, sull'Industry 4.0 siamo più avanti, forse però sarebbe stata necessaria una politica industriale pluriennale che preveda la creazione anche di istituzioni come le Fraunhofer e come il Max Planck Institute, una politica industriale un po' su tutto che pur senza essere dirigistica preveda delle facilitazioni, una politica industriale come quella che c'è in Germania e negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti poi hanno copiato la Germania, perché non possiamo anche fare noi come la Germania? Noi l'abbiamo fatto assolutamente. Innanzitutto il piano è un piano su 4 anni e non è solo sul 2017, il piano 2017-2020. Sono previsti la creazione di una serie di competence center. Sul modello tedesco io credo che noi abbiamo sicuramente da imparare dai tedeschi, abbiamo da imparare dagli statunitensi, ma quello che abbiamo fatto nella costruzione del piano è di prendere le lesson learned e best practice dai piani degli altri e adattarle alla esigenza del nostro paese, che ha comunque delle caratteristiche diverse. Quando prima ho detto questo piano è un piano che è più ambizioso in termini di aspetti economici che sono messi a disposizione sul piano, ma anche in termini di qualità degli interventi che il piano stesso prevede. Agli imprenditori in ascolto, in relazione a questo piano, quale altro suggerimento possiamo dare? L'imprenditore deve fare il suo lavoro. Il piano volutamente non ha individuato nessuna tecnologia sulla quale bisogna puntare. Il piano non ha identificato nessun settore industriale sul quale bisogna puntare, ma solo un fattore abilitativo sui fattori produttivi. L'imprenditore adesso deve fare il suo lavoro. Il rischio è il rischio imprenditoriale. Io credo che con questo piano gli imprenditori abbiano una grandissima opportunità. Non possono non coglierla, perché al di là del piano, voglio dire, la rivoluzione industriale sarà selettiva, quindi chi comprenderà che cosa deve fare è chiaro che sopravviverà, chi non comprenderà andrà a sopperire. Un punto che volevo chiarire, il piano a questo punto però elimina qualunque alibi agli imprenditori. Ecco, queste tecnologie, proprio perché non sono dei marziani, non sono anche cose mostruose, non sono cose inabbordabili. Se tu vuoi mettere in connessione i vari pezzi della tua azienda o i vari prodotti che fai, puoi anche iniziarlo a fare con investimenti molto piccoli. Non è che uno per comprare tutte queste macchine si deve rovinare e vendersi la casa. Tante volte l'idea del marziano fa anche pensare a qualcosa che spaventa. In realtà tu puoi andare per gradi. Queste tecnologie consentono una adozione incrementale, distribuita nel tempo. Noi abbiamo messo, come Politecnico di Milano, il nostro osservatorio Smart Manufacturing, ha messo a disposizione uno strumento, che è uno strumento di mappatura della maturità dell'impresa, per andare a capire quanto l'impresa sia matura e soprattutto quali sono gli spazi. La devo interrompere perché il tempo è tiranno, però faccio una promessa agli ascoltatori, al professor Taish, che lo potrete risentire numerose altre volte nel corso delle puntate di questa trasmissione. Arrivederci professore. Arrivederci a tutti. Saluto tutti e ricordo che Fabbrica 2.4 andrà in onda domani ore 13:15 su Radio 24.